Bene, grazie. Beh, come la introduzione che ha fatto Alessandra, oggi presenteremo i nostri tre ospiti. Sono tre realtà diverse, ma allo stesso tempo hanno dei punti in comune, anche il fatto di fare un po' una strada a un futuro sostenibile, di diversi approcci, quindi speriamo sapere un po' di loro. Emanuela, Ambra e Marilu ci racconteranno di queste tre diverse realtà, quindi in realtà voglio lasciare loro che ci raccontino un po' e dopo faremo delle domande. Io ho preparato qualcosa, ma mi piacerebbe molto se voi avete qualche domanda potete intervenire, che non sia solo da noi per voi, sino che sia un po' più dinamico. Quindi Emanuela. Okay. Ciao a tutti, grazie di avermi invitato qua a raccontare la storia di Biova Project. Allora, Biova è una startup innovativa nata nel 2019 a Torino, che vuole proprio lottare contro lo spreco alimentare. Sì, fammi solo vedere. Qua, se vuoi, sì, eccolo qua, perfetto. Ok, sono in presentazione. Sì, no? Fai tu? No, io non so. Ali, come per allora? Fai tu? No, ma perché non si sta condividendo lo schermo? Più che altro che lo schermo però non si può fare, se vai nelle impostazioni, se vai near words. Lo so. Vuoi venire qua? Presentazione, poi quando arriva arriva. Quindi startup innovativa che si occupa di upcycling e food innovation. Quindi noi siamo partiti da una cosa semplicissima, cioè il surplus, lo scarto, non si butta ma si riutilizza, che in ambito alimentare, ce lo raccontavamo anche prima chiacchierando dei vari progetti, non è così banale, perché quando una cosa, cioè magari appunto un vestito si riutilizza, ma pensare a un cibo che non è più perfetto, normalmente uno si dice vabbè, che faccio, lo butto. Noi stiamo proprio cercando di cambiare questo modo di pensare. E che cosa, quindi che cosa facciamo? Ci siamo messi a cercare quali sono quegli scarti che possono essere recuperati in maniera anche inaspettata. Ovviamente siamo una startup benefit e siamo ovviamente nell'ambito del sustainable goal, quindi come lotta allo spreco alimentare e con grande attitudine alle partnership. Vai pure. Sì. Allora, cosa facciamo noi? Facciamo birra utilizzando il pane in venduto recuperato. Tra l'altro qui ragazzi ce n'è, quindi poi dopo potete assaggiare, perché poi la domanda successiva è mai buona, non lo devo dire io, ma la risposta è sì. Che cos'è? È una birra craft, quindi una birra artigianale, dove andiamo a sostituire parte del malto d'orzo, circa il 30%, e ci andiamo a mettere il pane in venduto. Perché il pane invenduto? Perché ogni giorno in Italia si sprecano 1300 tonnellate di pane, che è un numero incredibile. Cioè voi immaginatevi più di questa stanza piena di pane. Ma non è il pane che c'è nel mio armadio con cui faccio le polpette, è il pane che rimane invenduto sugli scaffali. Perché rimane il pane invenduto sugli scaffali? Allora, nessuno vuole buttare via le cose, nessun panificatore vi dirà mai non sono in grado di organizzare la mia produzione. Ma il punto è che o sei il panettiere di montagna che alle 11 ha finito il pane, oppure se sei un panificatore che ha ancora gente che va a comprare alle 19 di sera, come fai a essere sicuro che tre persone vengano oppure no? E allora hai delle eccedenze. Normalmente tutti poi lo donano alle onlus, alle persone in difficoltà. Noi andiamo a prendere quello secco, quello che non si può più mangiare. E da quando siamo nati, quindi da ottobre 2019, pre-covid, il tempismo perfetto, noi abbiamo recuperato 4500 kg di pane, che è un numero veramente, è più di questa stanza di pane. che si porta dietro ovviamente un risparmio di CO2, si porta dietro un risparmio di materia prima perché è malto d'orzo che non viene consumato e ovviamente un risparmio anche di spesa pubblica perché è un rifiuto che non diventa rifiuto ma che viene riutilizzato. Noi cosa abbiamo? Abbiamo una gamma di birre. Quella che vedete qui, non nella slide ma qui da poi da assaggiare, è una birra a cui tengo tantissimo perché è fatta con l'associazione Panificatori di Milano. Quindi noi abbiamo contattato loro e 10 dei loro panificatori ci hanno aiutato a raccogliere. Abbiamo raccolto tipo 400 kg di pane in circa 2 settimane e un mese fa abbiamo lanciato Birra Milano, che per noi da torinesi è un po' un arrivare nella città dove insomma accadono tante cose. E devo dire che la risposta è stata ottima, nel senso che c'è veramente tanta curiosità, tanto interesse. E poi, oltre alla birra, noi non ci fermeremo qui, nel senso che noi puntiamo ad avere una gamma di prodotti sempre derivanti dal surplus. Questo un po' ve l'ho raccontato e eccolo qua, Risnack. Questo è uno snack salato fatto con lo scarto della birrificazione. La trebbia è un cereale esausto, immaginatevi come se fosse un grande cereale da colazione che ha rilasciato gli zuccheri e ancora però fibre e proteine, quindi è molto buono oltre che molto nutriente. E noi abbiamo iniziato a farci degli snack salati e poi abbiamo anche altri progetti anche di cose non commestibili, però insomma abbiamo tante idee su questo prodotto. Noi lavoriamo collaborando con i panificatori, collaborando anche con le GDO come UNES, come Coop, che con cui recuperiamo il pane e loro poi distribuiscono in via esclusiva il prodotto, quindi lavoriamo proprio di partnership. Perché il punto è questo, da soli non si farà mai niente, quindi o ci si unisce tutti per cambiare come si è sempre fatto e a trasformare dei processi produttivi, oppure il mondo rimarrà sempre lo stesso. E vabbè, qui ci sono un po' di esempi, questo è un esempio di Italy, perché anche con Italy abbiamo fatto una partnership, che tra l'altro la birra è proprio in vendita dove c'è il pane. E qui ci sono una serie di collaborazioni, abbiamo Biova Bergamo, abbiamo Biova Lago di Como, Milano, insomma, ci stiamo lavorando per diventare veramente nazionali. Vabbè, qui c'è un po' di dove siamo e futuro. Noi vorremmo diventare i promotori di un'Upcycled Association, perché in Italia, a livello di food, siamo i primi, stiamo aprendo un settore. Negli Stati Uniti ci sono dei casi importanti e quindi, insomma, un po' guardiamo lì e diciamo anche noi potremmo veramente lavorare per essere insomma i promotori di un nuovo sistema. Io direi, qui ci abbiamo a Milano, io direi che con questo posso chiudere, nel senso che qui lascerei la parola poi a Biova dopo, così e direi che lascerei la parola alle altre ragazze. Bene, grazie, io... grazie. Già ci avremo tempo di farti alcune domande, sì. Perché sembra, cioè io ho visto già la birra in... Cioè la vedo sempre a Lunes, che è un posto dove la vedo sempre, ma mai l'ho assaggiata e quindi oggi la assaggerò per capire com'è. Certo. Però sembra molto interessante. Bene, vediamo la seconda presentazione, questa. Vuoi che mi metti lì? Sì. No, se vuoi la passo io e mi dice come faceva lei, sì, guardava. Okay, sì, sì, è più comodo. No, okay. Non penso nessuno avrà problemi con questo. Ciao a tutti, io sono Ambra, sono una ricercatrice designer e sono qua come cofondatrice di Good Waste, che è questo studio di design e ricerca sui materiali che è basato a Londra e l'ho cofondato con Raffaele Mbate e Juan Austin, che erano praticamente i miei compagni di classe della Royal College of Art, dove abbiamo studiato il nostro master. E Good Waste è praticamente l'inizio di questo progetto di laurea che poi si è trasformato in un vero e proprio studio. E l'inizio del progetto è stato ricevere questo brief super vago dicendoci andate ad esplorare Park Royal, che è questo industrial estate in West London, ed è un posto, queste sono le immagini che fanno vedere un attimino in che contesto abbiamo iniziato questo progetto. È praticamente un posto dove ci sono tantissimi manufatturieri e non è molto vivibile, nel senso che è molto triste quel posto. E niente, il brief era di esplorare questo posto e capire un attimino che tipologie di opportunità potesse offrire a livello progettuale. E vagando un pochino tra le varie strade, parlando con i manufatturieri così, abbiamo subito capito che c'era un sacco di materiali di scarto che venivano prodotti ogni giorno, ma era scioccante perché questi materiali, secondo me non la faccio, erano veramente materiali pregiati, quindi ho trovato un sacco di marmo, un sacco di corian, che semplicemente perché i manufatturieri non avevano nessun tipo di business case per poterli riutilizzare per quello che realmente facevano, e normalmente in questi casi erano soprattutto cucine o comunque interni, quindi quando si ritrovavano questi pezzettini, questi offcut, quello che facevano era semplicemente buttarli, e questo però ha un costo non solo ambientale ma anche a livello economico, perché comunque c'è tutto questo smaltimento. E niente, praticamente quello che abbiamo fatto è raccogliere questi materiali, capire se realmente era possibile realizzare qualche oggetto, e quindi tramite veramente tantissima sperimentazione, perché nessuno di noi aveva lavorato con marmo prima dell'ora, quindi c'era veramente una cosa molto nuova per noi, quindi abbiamo fatto un sacco di esperimenti, e alla fine è nata questa prima collezione di Home More and Furniture, che poi Selfridges ci ha commissionato per produrla in bassa scala. E Selfridges, per chi non lo sapesse, è tipo questo high street retailer un po' simile alla Rinascente di Milano, per intenderci. Quindi era molto divertente, per me è molto divertente pensare che stavano vendendo degli scarti in un negozio che veramente ha un posizionamento molto alto. E l'approccio della prima collezione era cercare di ridurre il waste, cioè il materiale di scarto prodotto anche all'interno della nostra produzione. Quindi per esempio in questo caso, partendo dalle slabs, dalle lastre di marmo più grandi, abbiamo creato la shelving unit, cioè la scaffalatura. Scusate se a volte tiro fuori le parole in inglese, ma di solito descrivo questo progetto in inglese, quindi ho un po' di difficoltà. Però praticamente quando l'oggetto più grande è venuto a crearsi, gli off-cut, cioè i materiali di scarto di questa produzione, sono entrati poi nella panchina, e gli scarti di questi sono entrati all'interno del side table, dove avevamo utilizzato una tecnica del terrazzo, quindi tutti quei pezzettini che non sarebbero stati di nessun utilizzo sono stati incorporati all'interno di una lastra, permettendo la nascita di un nuovo oggetto. E l'altro approccio che abbiamo utilizzato, non si vede molto perché è molto bianco, si fa un orologio. L'altro approccio che abbiamo cercato di utilizzare per questa prima collezione era lasciare comunque far capire un pochino l'origine di questi materiali, quindi il marmo lasciato parzialmente grezzo portava, diciamo, al ricordo del fatto che non sono materiali che compri già fatti così perfetti, ma c'è una storia dietro, che è appunto la storia del materiale che viene buttato. Un anno dopo abbiamo fatto una nuova collezione, sempre per Selfridges, però questa volta anziché utilizzare i materiali provenienti da questa parte di Londra, abbiamo deciso di utilizzare gli scarti di Selfridges stesso. Quindi abbiamo iniziato ad analizzare un attimino che tipo di flussi di rifiuti venivano a crearsi all'interno del negozio, di questo retailer. E penso che sia stato tipo 2 mesi cercando di capire un attimino cosa veniva buttato, perché ci sono un sacco di pop-up store che quindi stanno in piedi per 2 mesi con tutti i vari, non so, con la loro installazione, e poi smantellano tutto, e quindi abbiamo, diciamo, preso questi materiali, per esempio questo metallo perforato che era praticamente di... erano queste facciate in metallo che T-Pop aveva creato per fare questo pop-up, e quando hanno deciso di smantellarlo abbiamo ripreso il materiale e cercato di riutilizzarlo per creare queste case delle lampade. Oppure, se andiamo nella prossima, queste sono delle candele, e qua abbiamo utilizzato quei pezzettini di candela che vengono buttati perché nei ristoranti magari non è molto carino presentare una candela mezza usata, e quindi abbiamo recuperato questo wax e abbiamo ricostituito in forma della candela utilizzando il marmo come stampo, quindi ha questi crateri un pochino che ricordano la collezione precedente. Questo invece è fatto in corian, che è un materiale sintetico, lo chiamano il Manman Stone, quindi praticamente è un mix di acrilico, di materiale acrilico e powder, polvere di roccia, di marmo, e viene utilizzato soprattutto per fare cucine, countertops, perché è molto è poliallergenico, quindi è facile da pulire e mantenere. e quello è venuto dai plins, dagli esibitori che venivano poi dismessi dopo un tot di tempo per fare un po' di renewal. Dopo questi progetti che erano comunque legati al mondo del retail, quindi oggetti commerciali, abbiamo deciso di esplorare nuove aree e quindi siamo andati più a toccare la sfera del sociale e la parte educativa, e insieme a Black Forest Workshop e con i fondi dati dal council, quindi dal comune, questo comune di Londra che si chiama Chingford, abbiamo realizzato Plasterworks. E Plasterworks è praticamente uno spazio dove venivano realizzati dei workshop, e Black Horse ci ha richiesto appunto di utilizzare il Good Waste Approach, e quindi abbiamo ricercato nell'area i vari flussi di materiali di scarto e abbiamo individuato quello del plasterboard, che è cartongesso. E quindi questi tre sono. E quindi Raf, che è uno dei tre che ha gestito questo progetto principalmente, ha studiato un modo per poter riutilizzare questi cartongessi come materia prima sostanzialmente, e quindi hanno riadattato questa macchina che in precedenza era utilizzata in agricoltura, non so esattamente per cosa, però praticamente con questo macchinario adesso possiamo praticamente distruggere il cartongesso, separarne i vari elementi e riportarlo alla consistenza della polvere. E con questo processo, andiamo nella prossima, abbiamo realizzato gli interni, scusate non si vede molto bene qua, abbiamo realizzato gli interni, quindi tavoli, benches, vari elementi decorativi eccetera, e poi abbiamo creato dei mold, degli stampi, chi voleva partecipare a questi laboratori potesse fare delle produzioni un pochino più piccoline ma gestibili e imparare attraverso il fare degli elementi riguardanti la sostenibilità o comunque del making in generale. E queste erano delle foto del workshop. Questi saranno i tre, e questo era per concludere dicendo che sì, Good Waste è abbastanza, è ancora un progetto molto nuovo, nel senso che è nato due anni fa ormai, però i progetti, anche se magari sembrano un pochino disconnessi, hanno questo filo conduttore che è sempre comunque il riutilizzo dei materiali che normalmente verrebbero ignorati, e cercare di comunque produrre questi oggetti a livello locale, quindi gli studi dei flussi di materiali sono sempre legati nel posto in cui il progetto stesso nasce, e quindi c'è sempre questa esplorazione iniziale che poi va tramite la sperimentazione fino a ottenere degli output che possono essere di diverse tipologie. E questo così. Grazie. Grazie mille, molto bello tutto. Si vede incredibile, cioè, tutti i prodotti li voglio. Non hai portato per portarci qualche mostra? Troppo, no, non ho niente, ha tutto Selfridges, quindi no, non bellissimo. Posso anche permettermi i miei prodotti. Sarà molto bello. Quindi tenete le domande, facciamo adesso presentare a Marilou con il suo progetto anche. E vediamo di fare le domande tutti un po' dopo. Aspettate, pensiamo. Dai, sai che questo c'è un video, se Ale non l'ha chiuso prima? Vuoi iniziare con il video? Sì. Così, vabbè, vi racconto Grid Design autoraccontandolo con un video che ha fatto il World Economic Forum sulla nostra startup che mi aiuta un po' a introdurla. Dura un minuto. Lascio il volume o vuoi parlare sopra? Facciamo questo minuto, tanto piccolo. è stato super interessante connettersi anche con la realtà di Biova, perché quello che fa Krill Design, noi siamo una startup che fa prodotti di design a partire dagli scarti organici, quindi un nuovo modo di pensare una materia seconda, cioè non una materia prima. Siamo una startup fondata da tre co-founder che hanno messo insieme differenti conoscenze dal loro background, quindi unendo la stampa 3D e il discorso del food, che poi in Italia è stato un po' portato in auge da Expo, cioè è diventato quasi pop da Expo. E, cosa fa Krill Design sostanzialmente? Abbiamo un laboratorio interno di chimica verde che studia quelli che sono gli scarti, appunto, cioè il nostro vecchio payoff era from trash to treasure, e poi è stato adesso cambiato, ma per dire che una materia, appunto, può, perché considerata scarto, in realtà ha ancora valore. E in un mondo in cui dobbiamo cambiare collettivamente atteggiamento nei confronti di quello che nei confronti della natura, cioè non chiedere un ulteriore sforzo alla natura, Krill Design ha voluto dire ok, usiamo quello che già c'è e che soprattutto non viene considerato, perché nel design spesso si intercettano filiere che sono filiere della plastica o filiere del vetro, ma non si pensa molto agli scarti organici, un po' perché secondo me penso non sono state ancora fatte così tante sperimentazioni, per cui per molti veramente non è possibile ancora. E un po' perché uno dice ok, cioè sono organici, come può essere ad esempio un oggetto durabile nel tempo o non decomporsi, non degradarsi. Quindi c'è uno studio della materia e la trasformazione vera e propria dello scarto che noi trasformiamo in filamento per la stampa. Dopo vi spiego velocemente il processo. Abbiamo un dipartimento di design perché abbiamo visto che ci sono tante realtà in Italia, ad esempio ce n'è una che si chiama Orange Fiber, che si fermano alla creazione del materiale, però non danno già una risposta nell'applicazione, ad esempio nel materiale, cioè magari creano un tessuto, creano un filamento, però poi magari rimane un po' lì. Invece quello che facciamo noi è effettivamente dare la possibilità di fruire un prodotto. E l'altro pilastro su cui si fonda e si basa per il design è la stampa 3D, ossia la stampa 3D ci permette di essere sostenibili anche a livello produttivo, perché non abbiamo stock e tutti i prodotti che noi facciamo sono fatti di fatto on demand, cioè una persona compra un nostro prodotto sul sito e sa che non c'è uno stock da gestire, eccetera, ma noi stampiamo in poche ore, infatti i prodotti sono studiati perché possono essere stampati veramente nel giro di poche ore e poi vengono inviati. E la forza di Krill Design è il Recrill, cioè il materiale che è stato registrato e brevettato, ed è il processo che poi più o meno è lo stesso per tutti i tipi di materiale organico che noi sviluppiamo. Cioè recuperiamo quello che è lo scarto, ad esempio noi abbiamo iniziato lavorando con l'arancia, buccia, semi, tutto quello che magari le aziende che fanno spremute appunto gettano via, e ci arrivano già essiccate perché non possono appunto degradarsi nella logistica, e noi le riessichiamo e le trasformiamo in polvere, e per indurirle facciamo un compound con un altro materiale totalmente naturale, cioè si sente tanto parlare di PLA, noi usiamo, che di fatto è una bioplastica, noi usiamo un materiale ancora più green che è dato dalla fermentazione batterica che lo indurisce, ci arriva sotto forma di pellet che scaldiamo e scaldandolo lo estrudiamo in filamento con il quale poi stampiamo i prodotti. Come dicevo appunto, l'ho già detto prima, ci avvaliamo della manifattura digitale che ci permetterà di appunto avere una produzione on demand, e questa è un po' l'evoluzione del viaggio della diciamo, della Orange Pills, della buccia d'arancia, al prodotto. Questo è stato il nostro primo prodotto, che è nato a luglio dell'anno scorso, è stato presentato su una campagna Kickstarter che è stata finanziata tipo nel giro di pochi giorni, due giorni, penso, cioè ha avuto un super riscontro super positivo. E ho portato anche due casi studio, perché quelli che noi facciamo non sono solo prodotti consumer, ma ci impegniamo anche a fare economia circolare a servizio dell'impresa, e quindi appunto un po' come Biova raccontava prima, visto che quello che è importante anche, cioè sono il problema sono anche le quantità di scarti che un'azienda produce, lavoriamo con aziende che hanno tanto scarto. E abbiamo iniziato, il nostro primo progetto è stato con San Pellegrino, recuperando le pucce delle loro aranciate, trasformate in filamento. Abbiamo fatto dei prodotti che sono stati realizzati in una partnership con Seletti. Abbiamo fatto un glassette, un vassoio e una lampada. E la cosa interessante di questo materiale è che, ad esempio, cioè, il vassoio va nella lavastoviglie, cioè uno dice appunto, cioè la cosa interessante da investigare dei materiali e dei biomateriali è capire quanto effettivamente sono una proposta speculativa o abbiano una reale applicazione nella vita quotidiana. E un altro progetto interessante che abbiamo fatto è dai fondi del caffè, questo per dare aveva anche una missione sociale di un po' come Magma ha fatto con Exalge, di coinvolgere le realtà di quartiere. Noi abbiamo coinvolto la realtà di quartiere di Bovisa, quindi siamo andati nei bar e i ristoranti che avevano fondi di caffè della zona Bovisa di Milano, abbiamo sviluppato il biopolimero al caffè e con questo biopolimero abbiamo fatto dei prodotti che sono stati disegnati da studenti del Politecnico di Milano e che sono stati reintrodotti poi negli stessi bar, sono stati utilizzati, venduti. E basta, questa è un po' la realtà di Krill. Bene, bene, grazie Marilu. Krill io personalmente lo conosco abbastanza bene, anzi, quindi non farò magari delle domande precise, lascio al pubblico. Okay. Però è molto bello vedere come diverse realtà con diversi approcci completamente, cioè da scarti diversi, possono fare una visione a un percorso di sostenibilità. E, diciamo che ancora ci sono tante realtà che stanno affrontando questa visione, vedendo in uno scarto la possibilità di generare nuovi materiali, nuovi prodotti, nuove idee, innovazione che generano. Soprattutto del lato design, no? Si vede, magari perché sono anche designer e conosco molto più quel mondo, che il mondo, cioè, del cibo, del riutilizzare, dell'upcycling, mi sembra incredibile. Infatti magari forse inizio con una domanda particolarmente in quel caso, perché cioè, mi sembra strano capire che, diciamo, uno scarto si riutilizza per mangiare o per bere, e quindi la mia domanda sarebbe: come vedete voi l'accettazione delle persone ad acquisire questi tipi di alimenti utilizzati? Devo dire che noi abbiamo una risposta molto positiva al appunto, anche noi ci siamo fatti questa domanda, ma come sarà la percezione? Cioè, mi sembra difficile mangiare, bere uno scarto. La risposta che ci diamo noi è che la birra è una cosa talmente conviviale, che in generale insomma piace a tutti, per cui rende facile l'accettazione. Devo dire che sullo snack salato abbiamo avuto un pochino più di persone che ci dicevano mi fa strano, però poi li assaggi, superi, è buono, e quindi il problema si risolve. Sicuramente siamo in una fase di nicchia, siamo in una fase di persone particolarmente interessate, legate alla sostenibilità, persone che comunque hanno un approccio, se vogliamo, di apertura verso una certa tipologia di esperimento come può essere questo. Però la risposta che riceviamo più spesso sulla birra è: quasi non si sente il fatto che ci sia il pane. È un po' il senso, un po' quello, cioè trasformare questo processo in un processo che poi sia normale, cioè boh, sì, è fatta col pane, no, è fatta solo col malto, fine. Una risolve un problema, l'altra no, finito. Questo è un po' l'approccio. Però sì, un po' bisogna raccontarlo e sicuramente bisogna parlare alle persone che sono più predisposte a un tipo di esperimento, però in generale molto positivo. Bene, grazie. Invece in vostro caso, per esempio, si vede che, diciamo, personalmente lo vedo e non direi mai che era uno scarto prima, perché anche ha un livello di design molto alto, quindi potrebbe essere tranquillamente di un materiale vergine che non si vede la differenza. Ma al modo di raccontarlo, quando voi raccontate questa realtà, per voi è importante raccontare che è uno scarto, che era uno scarto, che il materiale, che il nuovo design viene da un scarto, o lo lasciate fuori a questo racconto? Allora, penso che nel caso nel retail è stato magari meno noto inizialmente che era un fatto di scarti, però la ragione per cui Selfridges ci ha coinvolto era perché erano fatti con gli scarti. Cioè, magari il design stesso è molto pulito comunque e, come dicevi tu, cioè non sembra, se non lo sai non percepisci che sono veramente degli scarti, probabilmente anche per la tipologia di materiale che abbiamo inizialmente scelto, cioè comunque il marmo, un materiale molto pregiato, e probabilmente nella concezione comune non c'è questa visione del marmo che può essere visto come un qualcosa che viene buttato. Però il fatto che erano fatti con gli scarti è stato, diciamo, la punta di forza. Quindi l'estetica insieme alla storia del fatto che c'è una questione di recupero e un riutilizzo ha portato il progetto a arrivare a posti in cui magari inizialmente non saremmo mai aspettati, onestamente. Mentre per la parte più di workshop, più sociale, lì invece è proprio palese che partiamo dagli scarti, perché quello è proprio il punto di cioè la forza della cosa, perché stiamo facendo dei laboratori per poter permettere il riuso, quindi il messaggio è molto chiaro e trasparente in quel caso, però nei prodotti non è così immediato. Esatto. Infatti c'era, adesso in questo periodo, in questo momento storico, magari non si vede tanto allo scarto con un aspetto negativo. Magari alcuni anni fa, 10 anni fa, quando si parlava di un prodotto o un oggetto riciclato, era un oggetto che perdeva tanto valore, era come, ok, una cosa fatta in casa, hai aperto una bottiglia, hai messo una pianta, cioè era un po' quello il concetto. Invece adesso anche nasce questo concetto dell'upcycling, di migliorare anche quell'aspetto di non è solo riciclato o riutilizzato o rimesso di nuovo in un sistema, sino anche fatto con valore, con più valore. E nel caso di Krill, Marilu, ci vuoi raccontare come le persone capiscono che questo materiale è fatto dello scarto? Le persone pensano che è comunque una bioplastica normale, una plastica senza alcun valore aggiunto, o si capisce facilmente? No, all'inizio, cioè, devo dire che noi puntiamo proprio sul passare il messaggio, cioè il valore è il recupero degli scarti alimentari, e puntiamo sul raccontare il messaggio che questi prodotti arrivano da materiale organico, che sono 100% biodegradabili e compostabili e si possono gettare nell'umido. Devo dire che abbiamo risposte diverse anche a seconda del paese con cui interagiamo. Tipo in Italia, ne parlavo oggi quando sono venuti a vedere la nostra installazione durante il fuorisalone, c'è molto interesse sul biomateriale in sé, però c'è magari ancora un po' di fatica nel comprendere, cioè non è una lezione già appresa, e quindi è quello che facciamo noi, è proprio mostrare che si può. Invece ci sono altri paesi in cui vendiamo i prodotti che diciamo le persone sono super esaltate e sanno già che si può fruire di questi prodotti che sono diversi, che arrivano da uno scarto. Ad esempio in Inghilterra, anche la Francia, abbiamo avuto tantissime risposte positive. Quindi quello che facciamo noi è andare avanti e diciamo raccontare il valore intrinseco dato dal materiale stesso, cioè la nostra forza. E quindi è anche sperimentare, cioè essendo una cosa così nuova, è sperimentare anche risposte diverse, che poi è interessante anche per noi. Bene. Torno a te a farti un'altra domanda. A parte il pregiudizio che siano prodotti con scarti, avete trovato altre grandi difficoltà nel processo? Va, grande no, perché in realtà questa non è stata per voi una grande difficoltà, ma si trovano delle difficoltà per generare questi prodotti? Ma allora, diciamo che le difficoltà sono un po' legate al rompere alcune tradizioni o abitudini. Tipo quando dialoghiamo con grande distribuzione organizzata per dire no, guarda che questo bene si può riprendere, adesso meno, ma all'inizio la prima domanda era: ma è legale? Sì, abbiamo fatto una società, quindi siamo consapevoli di quello che stiamo proponendo, non siamo matti. E poi un po' rompere la consuetudine, cioè si è sempre fatto così, questo bene veniva buttato, allora se io adesso lo devo recuperare devo cambiare qualcosa, devo dire alla persona che normalmente lo buttava che non lo deve più fare, lo deve tenere secondo delle regole. Quali sono queste regole? Te lo dico io quali sono le regole. Sì, ma questo processo è difficile, perché si tratta di andare a cambiare il come si è sempre fatto. E ogni volta che cambi interlocutore devi rispiegare da capo e andare ad adattarlo per il processo di spreco / recupero di quella realtà. È un po' quello, secondo me, la difficoltà quotidiana che viviamo. Mm-hmm. Però devo dire che sta cambiando tanto l'attenzione. C'è una volontà generale di andare a modificare questa cosa, quindi, però insomma, tante parole. Bene, no, perché diciamo che anche io quando lavoravo a Krill, diciamo, si sentiva tanto un po' questa cosa di sì, però sì, come spiegava prima Marilu, è uno scarto, quindi magari non dura nel tempo, quindi perché è un oggetto che dura poco, o diciamo tutto questo è un impegno che adesso si deve fare sia nell'ambito food, nell'ambito design, che si deve affrontare a, ok, valorizzare invece questo che sia una scarto, che sia un approccio diverso, perché anche è una forma di cambiare un po' il paradigma di consumo e produzione che abbiamo fatto fino adesso e che non possiamo più continuare. Quindi questi problemi saranno sicuramente in tutte le nostre produzioni nuove. Invece ti faccio un'altra domanda riguardo più a voi. State facendo una cosa bellissima che è prendere gli scarti e darle una vita nuova. E invece a questi prodotti avete già pensato o avete in piani che succede con questi prodotti quando si devono buttare o quando non si utilizzano più? Spero che le persone comunque quando comprano questi prodotti siano per tenerli e mantenerli. Cioè se un vaso si rompe, non so, viene buttato, penso. Perché comunque il core non è un materiale riciclabile al momento, quindi non c'è questo servizio che viene offerto per la raccolta e l'utilizzo a livello industriale, dove può ritornare a essere un materiale vergine. È una cosa che non ci abbiamo ancora pensato, probabilmente siamo ancora in una realtà molto piccola comparison con Viola, quindi ci sono ancora dei dettagli che potrebbero essere esplorati, giustamente, e probabilmente c'è anche un'opportunità di creare più, magari non la parte di design del prodotto insieme, a creare anche un servizio che possa facilitare un attimino la distribuzione di questi materiali, che al momento quello che facciamo noi è andare al manufatturiere, saltare dentro i cassonetti, prendere fuori quello che ci serve, quello che ci piace e tornare nel nostro studio. Ovviamente questo non è scalabile in questo modo, cioè bisognerebbe creare un servizio che possa facilitare non solo il nostro studio, ma in generale designer o architetti che hanno piacere o comunque hanno questa passione nel poter riutilizzare qualcosa e creare qualcosa di nuovo, e quindi facilitare il tutto tramite un servizio un pochino più costituito piuttosto che saltare in cassonetti così. Però vabbè, non saprei dirti. Cioè nel caso del gesso, quello può essere riportato a polvere e riutilizzato. Nel caso del marmo e del corian, se si spezza purtroppo non c'è tanto che si può fare. Si può provare un repairing, però non è detto, dipende come si rompono. però sono stati disegnati con un design abbastanza, cioè non è quei design che seguono la moda, quindi sono, cioè spero che siano abbastanza... E anche sono materiali che sono durevoli, se vengono utilizzati, nel, cioè ovvio se ti cade il pezzo di marmo, cioè, non c'è molto che si possa fare, cioè si spezza sicuramente, però se vengono utilizzati come dovrebbero essere utilizzati, dovrebbero durare... Bene, bene, bene. Faccio l'ultima domanda a Marilu e poi siete invitati a fare anche domande voi, però invece nel caso di Krill, ok, tu parlavi che era un materiale biodegradabile, cosa pensate di questo approccio di che siano materiali biodegradabili? Pensate che le persone sono abbastanza consapevoli di come buttare e gettare questi elementi o trovate dei problemi alla comunicazione? Non so. Ma allora... Un po' lo stiamo scoprendo noi anche adesso perché i prodotti B2C sono nati a luglio dell'anno scorso ed era solo uno. Adesso abbiamo la nostra seconda collezione che stiamo presentando adesso, quindi la verità è che lo stiamo scoprendo anche noi. Uguale in realtà, cioè come dicevo in realtà anche se sono biodegradabili e compostabili la domanda è perché uno dovrebbe decidere di gettare la sua lampada che ha comprato, cioè appunto... È più da intendere, ok, se ti cade il pezzo e si rompe, invece hai un po' la tranquillità di dire ok, lo dismetto nell'umido perché poi sono progettati senza colle, ad incastro, quando prevedono ad esempio il filo della lampada, lo puoi semplicemente disincastrare. E, però ecco, io penso che un po' la missione da un punto di vista di design è ok, cioè proprio da un punto di vista di consumo è compro un prodotto che è destinato a durare. E quello che facciamo noi è proprio dallo studio dei materiali e dire ok, cerchiamo un materiale che sia un'alternativa veramente, cioè che non inquini, cioè che la verità è che se lo metti nel, stiamo facendo adesso degli studi, se lo sotterri nel terreno dopo un po' diventa magari addirittura, non dico fertilizzante, ma ecco comunque che possa tornare alla natura. Bene. Questo. No, bene, infatti, cioè, adesso vi lascio la parola, però faccio queste domande un po' anche provocative perché voglio, come si dice, highlight? Evidenziare. Sì, evidenziare che queste realtà sono abbastanza giovani e quasi tutti i progetti nuovi di oggi che stanno provando a fare una cosa diversa riguardo alla sostenibilità, a essere più responsabili, a nuove strade verso questa... questo nuovo paradigma di produzione e consumo non hanno le risposte, come nessuno di noi ha le risposte alla sostenibilità e quindi è molto difficile a volte essere giudicato con questi tipi di domande, cioè per quello ho fatto, sono cose che non sappiamo noi ancora e anche io sto un po' ricercando nuovi materiali, è molto difficile, però si sta provando, cioè se non ci prova non si ci arriverà mai a un cambio di paradigma, quindi in realtà sì, dobbiamo essere consapevoli e proporre delle cose che avranno un futuro anche sostenibile o per arrivare alla sostenibilità, però non possiamo fare sempre giudicare agli altri come dire no, ma questa plastica è uguale a qualsiasi, quindi in realtà continuo a scegliere lo di prima perché in realtà dobbiamo capire, abbracciare queste nuove soluzioni e anche collaborare come cittadini, sì, cioè. Contadini, no? Come utenti dei prodotti, come persone che consumiamo, dire ok, accettare queste nuove sfide perché non è, un'azienda non farà mai la soluzione di tutto, quindi anche noi dobbiamo fare la nostra piccola parte di imparare nuove cose e capire queste nuove soluzioni e anche aiutare e dare spunti a queste aziende e dire ok, per esempio, i prodotti vanno bene, magari se sviluppa in un certo periodo, se sviluppa in un certo modo, come diceva anche Marilu prima, nei diversi paesi avranno sui diversi modi di consumo, di vivere i prodotti, i progetti, quindi penso che sia importante. Se volete fare qualche commento prima di che qualcuno faccia la domanda, vi lascio anche qualcuno che voglia fare una domanda. Per favore, avete sentito tre progetti? Vai, vai. Io non so neanche se sia una domanda in realtà, è un commento, cioè nel senso... Va benissimo. Perché mi è piaciuta molto la tua domanda sull'ambito anche estetico magari, sulla percezione, no, di un prodotto riciclato, che sia una materia da poi trasformare in un prodotto finito in per sé. Cioè la cosa appunto che c'è stata concezione proprio negli ultimi 10 anni, la plastica riciclata aveva queste sfumature alla Cernit, non so come dire, c'è questa roba, la plastica c'è riciclata, visto. E invece no, cioè invece molto di più. Però ad esempio con l'arancia, che ha una sua pigmentazione, che ha un suo richiamo anche estetico, voglio dire. Voi state esplorando anche magari altri materiali, ho visto che alla fine mi sono quasi tacciato, nel senso, c'è altro come frutto, non so. Sì, sì, assolutamente, no, adesso... Che non puoi dirci chiaramente perché sta avendo preoccupato, sicuramente. Ma no. La mia domanda sarebbe più che altro, no, neanche la domanda, è un po' per tutte e tre, cioè nel senso, è proprio legata al fatto quando forse, secondo voi, non lo so, quando forse ci si slegherà anche un po' di più da questo concetto per cui... Un qualcosa di riciclato deve essere venduto come riciclato, cioè nel senso, non ho riciclato, oppure chiamiamolo come vogliamo, però questa idea che debba essere marketizzato anche in un certo modo, cioè che automaticamente ti metti in una posizione per cui, non so, oggi spara anche le orecchie perché puoi fare quello corretto anche in un certo senso, però come dicevi tu, quando smette di essere una speculazione diventa una cosa scalabile, perché poi la scalabilità, non so quante arance ci siano, cioè non so se possiamo... ripavimentare un intero palazzetto dello sport con l'arancia per dire, ma qual è che sarà secondo voi, se avete una risposta a uno spunto, il momento, come si potrebbe arrivare a un momento in cui si smette di marketizzare come tale e diventa una cosa più, non so come, come potrebbe essere lo strumento, cioè questa è un po' la cosa che sarebbe interessante, no? Queste storie qua, non so se si chiede. Vai, sì, sì. Se ho capito un po' la tua considerazione, per me la risposta è stata un po' la considerazione di Sophie prima, cioè il punto è che lato startup, cioè adesso in questo momento storico bisogna fare, cioè per me, per come sto vedendo anche la realtà di Krill, cioè bisogna fare leva su quello, perché cioè come fa a essere outstanding un prodotto che magari ha anche delle problematiche da risolvere, perché appunto cioè non è così collaudato, cioè penso che poi il salto della non, cioè del cambiare modello di proposta è dato anche dalla consapevolezza, cioè quando in realtà diciamo subentra, cioè arriva sotto pelle di non una nicchia ma di tutti, allora uno non si pone nemmeno più la domanda, allora vendi il tuo prodotto, fa ricerca sul tuo prodotto perché ti piace il materiale, proprio per la caratteristica, la porosità e non perché è arancione, perché è fatto dall'arancia e tipo lo devi raccontare come tal. Sì. Cioè, è curioso che spesso magari sono dei materiali non si in pelle, ma non in pelle, ma no, esatto. La pezza della pelle, non so come dire. Cioè anche quello forse è un gradino da superare, non lo so, in un certo senso, in modo che tu non va più replicare un cibo in alcuni casi piuttosto che una pelle, un materiale naturale che vive della sua naturalezza, vive della sua diversità, e slegarsi, no? Quindi forse è ambizioso, un materiale nuovo in cui non dovrò più dire niente perché sarà slegato esteticamente anche da quel ricordo, cioè da quell'idea. Sì, sì, sono d'accordo. No, questo è super interessante, ad esempio, cioè Krill punta molto sul ricordare l'origine della materia, ma perché appunto, quindi, cioè, noi insistiamo per far passare il messaggio, sennò veramente cioè, non possiamo fermarci a una nicchia, per far arrivare a più persone possibile, allora se mi fai vedere che addirittura il primo prodotto, cioè mi fa sorridere perché addirittura il primo prodotto da Umi è proprio una texture che ricorda la pizza d'arancia, ed è questo, però io penso che cioè, in questo momento anche poco tempo fa la risposta era questa, e però cioè io penso che poi si arriverà a quello che dici tu. Vai, Ale. Per me devi fare ricerca, cioè devi capire quel materiale che potenzialità rispetto agli altri. Sì, no, però nel senso, cioè in pratica tu parti e cerchi di realizzare delle bioplastiche per andare a sostituire una plastica che è stupenda, l'amiamo tutti noi designer perché ci puoi fare un botto di cose, però ci mette un'eternità a biodegradarsi e diventa microplastica, cercando tipo e puntando su una sperimentazione può essere un riutilizzo degli scarti, vai a creare dei nuovi materiali. Questi materiali hanno ancora per me delle problematicità, non hanno la resistenza che può avere una plastica, non hanno l'economicità che ha una plastica, quindi devi puntare nel spingere questa cosa, adesso è molto comunicazione tutto. Detto questo, per me nel arrivare un giorno a scegliere dai la buccia d'arancia per fare queste mattonelle invece che la ceramica, no, la ceramica perché è un gran materiale ed è assolutamente la plastica e devi dire cazzo mi piace, cioè, non mi piace perché per me degli studi così tanto approfonditi che vanno a definire delle caratteristiche che poi nella progettazione ti serviranno a porteranno a scegliere quel materiale, per me nella mia testa. Non so se questo sia possibile, ci si prova. Sì, ma secondo me sì, tipo, non so, ci sono... Com'è? Sì. Poi tipo, non so, c'era tipo qualcuno che adesso stava sperimentando anche tipo sulle patate, sulle bucce di patata, e tipo, i materiali hanno una trasparenza. Wow, cioè nel senso, ok, allora che cosa ci puoi fare? Quindi parti e... Sì, diciamo che comunque il modo in che lo hai presentato anche genera un cambio talmente grande che magari come società non è tanto facile arrivare da un giorno all'altro e dire ok, non si usa più questo, si utilizza questo. Quindi anche ogni realtà prova ad approcciarlo in un modo diverso, cioè non è un modo, non c'è un modo scritto. Quindi ognuno lo prova, alcuni fanno delle bioplastiche che sono esattamente uguali alle plastiche che si utilizzano, perché il suo modo, come hanno capito i trends, come hanno capito che va, dicono no, alle persone va benissimo utilizzare, ai designer, alle aziende, va benissimo utilizzare una plastica, una bioplastica, però deve continuare a fare prodotti esattamente uguali. Invece ci sono altri approcci che scelgono questa bioplastica e fanno vedere un altro valore, ma come vedi esattamente, come lo vedi Krill, come lo vede Krill oggi, non è così facile che tutti vanno a scegliere quel prodotto perché tanti hanno pregiudizi. Quindi in realtà cioè, si deve trovare un balance in questa situazione perché siamo in un momento di transizione. Quindi in questa transizione si arriveranno tante diverse cose in mezzo. Ci saranno quelli che saranno molto vicini, ci saranno quelli che sono molto lontani e uguali a quelli prodotti vecchi, e quindi si deve trovare, e per quello ci sono anche tanti diversi approcci, perché ognuno sceglierà quello che si sente più ad adottare, diciamo, no? E secondo commento che faccio riguardo a quello che hai parlato della scalabilità, che magari dobbiamo smettere di pensare che tutto deve essere scalabile, globale, mondiale, un materiale che sirva per tutto il mondo, quindi magari si sceglierà in base a quello che localmente si possa produrre o si possa fare. Quindi penso che il fatto di anche immaginare che l'approccio non sarà che questi nuovi materiali, queste nuove proposte di design, queste nuove proposte di alimento saranno uguali a tutto quello che abbiamo già fatto prima. E questo è anche un altro pregiudizio, è una regola mentale che abbiamo in testa che magari in algun modo si deve iniziare a cambiare. Penso che loro tre stanno proponendo delle iniziative che vengono a cambiare un po' questa prospettiva, quindi sono non necessariamente deve essere scalabile come loro dovranno fare questi bellissimi orologi a 1000 da venderle in tutto il mondo, sino magari arrivando a quelle piccole persone che arrivano è sufficiente. Magari sarà un altro good waste in un'altra parte del mondo che farà anche altri materiali, anche altri prodotti. Beh, volevi... Cioè, io ho una domanda, non so, ho visto che tipo a 5 anni c'è tantissimo greenwashing, come fate voi a differenziarvi di questi tipo di concorrenti oppure non vi fate attenzione? Secondo me ognuno fa la sua strada, nel senso che sta poi al singolo capire che cosa è genuino e cosa è greenwashing. Nel senso che a noi ogni tanto dicono ma voi siete una multinazionale. No, siamo 10 persone che lavorano tutto il giorno e non siamo una multinazionale. E magari abbiamo un approccio alla comunicazione che può assomigliare a quello di una company, ma perché vogliamo dialogare in un certo modo. Io penso che alla fine sia in contesti come questi dove si può capire se Biova è genuina oppure no. E poi sta il singolo fidarsi oppure no. Questo è un po' quello che penso. In Good Ways quello che abbiamo cercato di fare è essere molto trasparente su come le cose avvengono. Quindi attraverso l'utilizzo di social o comunque website cerchiamo sempre di essere il più trasparente possibile e coinvolgere attraverso visuals il consumatore a capire realmente cosa succede nel background, quindi anziché presentare semplicemente questi oggetti, solitamente ci siamo noi in video lì a lavorare, o comunque far vedere un attimino l'approccio, cioè la parte reale che c'è dietro ogni oggetto, e poi sta alle persone, come dicevi anche tu, sta alle persone capire o decidere se siamo genuini o meno. Però ecco, l'approccio alla trasparenza penso che questo sia una cosa che sta funzionando. Sì, io faccio come sopra. Penso che anche, cioè, sia... sì, io penso in realtà anch'io che la comunicazione trasparente sia importante, anche lì è un po' difficile ogni tanto perché magari le big company dice no, vogliamo essere trasparenti, vieni inquadra il QR code dentro la nostra realtà. Allora, cioè magari io penso per realtà più piccola è più facile perché è ovvio che è così, non c'è altro modo, ed è per questo che sono spesso anche puntate da invece grandi compagnie, cioè per questo che ad esempio nel caso di Krill noi lavoriamo con grandi aziende lato B2B perché siamo, cioè di fatto siamo gli unici che possono dare a loro una risposta realmente sostenibile. Il punto è noi tipo contribuiamo alla loro sostenibilità tipo di tanto così e magari loro utilizzano, cioè, questa sì, cosa per fare il greenwashing, invece appunto noi no, quindi penso che sia sì, magari da un punto di vista del singolo un po' capire. Io penso che in un largo pubblico a tante persone ancora non si approcciano, cioè non si pongono veramente ancora tanto il problema, cioè è un problema che nei prossimi anni secondo me vedremo ancora di più e magari verrà anche esatto, ci saranno delle legislazioni, sì, diciamo, per cui non sarà più possibile magari scappare o veicolare, no? E cioè trovare gli scappatoi. Anche quello, cioè, potrei dire noi siamo veramente sostenibili oppure... Esatto, cioè già ci sono alcune realtà, enti che ti certificano e per cui è più difficile, per altri invece è ancora... Però io penso che sì, negli anni futuri sarà... Oh, è una mia idea, non so, però questo tema verrà ancora più indagato. Per segnalare un po' questa questione, adesso, giusto non tanto tempo fa, l'Unione Europea ha lanciato questo nuovo passaporto di prodotto che i nuovi prodotti dovranno utilizzare, quindi le strade si stanno un po' chiudendo a che tutti i produttori facciano veramente, se sei sostenibile fa vedere, o se non sei sostenibile magari, però fai un passaporto che dica veramente come sia il tuo prodotto, quindi ogni volta si avvicinerà più a dire la verità o dimostrare che non sei sostenibile. Aveva un'altra domanda dietro. Io volevo approcciare dal discorso che aveva fatto la ragazza sulle proprietà dei materiali, cioè a livello progettuale, in particolare qui, ma delle decisioni principali. Come trovate le proprietà dei materiali? Perché a livello classico è, ah, io scelgo questa plastica perché il mio prodotto ha bisogno di questa proprietà, però magari nelle bioplastiche non... Non lo so, come avete scoperto che il vassoio alla lastovina? Come avete scoperto che la lampada ha una resistenza, scusate, che regrilla una certa elasticità che lo trovate in plastico? No. È una cosa che... Ah, è una cosa che è prima, dopo e nel mezzo. Ti direi prima, dopo e nel mezzo. Perché dipende dal portafoglio di materiali, cioè ad esempio c'è, cioè, l'arancia, noi abbiamo fatto tanti progetti, quindi c'è stato prima, tra l'altro appunto le aziende stesse che hanno fatto prodotti all'arancia erano ovviamente interessati, quindi noi, cioè, ancora non avevamo sviluppato i loro scarti che già loro volevano il prodotto finale, quindi c'è stato, cioè, tutta una parte di ricerca sul materiale prima che ti dice ok, ci si possono fare certe cose e altre non si possono fare e poi si fanno sulla base delle scoperte. Adesso tipo l'arancia lo sappiamo le proprietà che ha, noi diciamo ok, noi possiamo lavorare con tutti gli scarti organici, però ovviamente la temperatura di fusione di un prodotto al caffè è diversa da quella dell'arancia. Cioè, abbiamo un laboratorio interno che si occupa dello sviluppo di materiali e quindi dipende dall'urgenza, tipo ok, cioè vogliamo assolutamente cioè ad esempio adesso noi abbiamo sviluppato il materiale al limone e abbiamo scoperto che come materiale è molto più simile a quello del caffè, cioè è molto più simile alla proprietà del caffè perché è molto più acido rispetto all'arancia e quindi ha delle caratteristiche meccaniche diverse. Poi adesso io non sono proprio dentro al laboratorio, quindi ti posso dire un po' diciamo l'approccio che utilizziamo noi, quindi sì, si fanno degli studi prima, cioè si identifica una risorsa e si prova e si passano dei mesi finché non ce l'abbiamo, cioè non abbiamo delle risposte. Poi la verità è che una volta che ce l'hai anche durante si scoprono delle cose che magari non avevamo. Chiama il gioco. Sì, questo. Vorrei fare anche una domanda, chiudere tutti i punti, perché anche la sua domanda mi ha fatto pensare. Cioè, quello che Sofì diceva della transizione, che siamo in un periodo di transizione, per me personalmente è molto vero, in cui il futuro, per mio personalmente, magari non avremo tanto bisogno di riciclare gli scarti, perché gli scarti non ci sarebbero. Dentro delle vostre realtà, ognuna di voi, cioè, come vedete il futuro dei vostri business o dei vostri sistemi? Cioè, diciamo, ma più in là, 10 anni, se riuscite, se sapete, se avete delle idee. Allora, lato nostro, sarebbe bello che si arrivasse, diciamo, all'esaurimento della materia seconda. 10 anni sono un po' pochi, secondo me. Però sicuramente per me, cioè, non essere più utili e aver raggiunto l'apice dell'utilità. Lo vedo un po' distante, ecco. Non lo vedo come un problema immediato. Sì, però nel vostro progetto, sì, tipo proprio il futuro, vi vedete un po' dappertutto, collaborando con, sì, diverse realtà. Sì, noi ci vediamo come un brand che propone prodotti, diciamo una gamma di prodotti ampi, diversi, sempre alimentari ma diversi, e quindi diventare un po' insomma, il primo brand di upcycled food italiano. Questa è la missione. E al momento tutti ci dicono, ma non avete paura di non avere materia seconda? La risposta è, purtroppo per ora la paura non c'è. Poi sì, in prospettiva la risposta è sì, sarebbe vero essere inutili. Io più che 10 metterei 30 anni, ecco. Però magari verrò contraddetta breve, volentieri. Stavo pensando un attimino, perché comunque l'approccio che penso Good Ways ha in confronto a Grill e Biova è che noi siamo tipo come le api, cioè noi andiamo in un posto, facciamo il progettino, poi cambiamo, quindi non abbiamo questo, questo continuo, cioè un prodotto continuativo che portiamo avanti, e perciò diciamo che abbiamo sempre questi flussi di scarti che cambiano sempre, e se il progetto c'è è perché lo scarto c'è. Purtroppo ci sono delle industrie che probabilmente non sarà mai possibile ridurre lo scarto al 100%, perché se pensiamo ad esempio al marmo, cioè il marmo viene estratto, sono lastre, se tu devi farti la cucina in marmo è ovvio che non userai mai l'intera lastra. Quindi purtroppo il punto di partenza è quello, e se devi disegnare qualcosa lo scarto c'è, quindi quello potrebbe essere un'idea, cioè potrebbe essere un flusso sempre continuo fino a quando in un momento non ci sarà più marmo, e allora lì magari non esiste anche la materia prima e quindi si risolve tutto il problema. Lo vedo molto distante però. Però sì, come diceva lei, cioè, l'idea di Good Waste, cioè, sarebbe veramente fantastico se potrebbe fallire, perché vuol dire che realmente non c'è più, non ci sono più scarti. Sì, ci divertiamo un po' così. Adesso per noi comunque è un... siamo masochisti, cioè ci piace sempre tutto il lavoro, cioè la prima parte di ricerche, capire cosa succede in un posto, capire i flussi, porta via un sacco di tempo, un sacco di risorse. Però adesso non siamo più a tempo pieno, quindi siamo tutti full time jobs, quindi è un po' il progetto serale o del weekend, e ci piace comunque cambiare sempre un po' ambiente, esplorare posti nuovi o comunque iniziare sempre qualcosa di nuovo. Perciò l'approccio del impollinare un po' ovunque per ora ci sta bene. Sì. Io vedo due strade possibili, e sono, vabbè, una la continua ricerca nel mondo dei materiali organici alimentari, c'è una quantità di cose inesplorate che, cioè, siamo lì che vogliamo arrivare da un po' che parliamo dei gusci delle uova, cioè veramente di tutto, e che non abbiamo ancora esplorato, che vogliamo esplorare. E inoltre noi trattiamo composti organici omogenei, quindi c'è solo le scorze arancia, solo il caffè, dico Il nuovo salto sarebbe veramente il cestino dell'umido di casa che uno dice che è schifo, e invece no, adesso vogliamo anche, cioè, rendere, nobilitare uno scarto misto. E poi penso che, per ricollegarmi un po' alla domanda di prima, magari che il design sia promotore anche veramente di un nuovo materiale, cioè questo, quello che noi chiamiamo recreel, e quindi che uno, al di là del design che proponiamo nei prodotti, possa scegliere di dire: io designer oggi voglio progettare con recreel perché ha queste caratteristiche, mi piace, cioè penso che sia un super goal e ci arriveremo, spero. Qualcuno altro? No? Io più che una domanda ho un commento che mi è venuto in mente sapendo parlare qui per voi, ed è un po' il fatto che, cioè, che nessuno di voi si è fatto con uno scarto che aveva in casa. Cioè, non è successo che vi siete ritrovati con tre sacchi di pane e avete fatto la birra. Quindi che siete andati proprio a cercare lo scarto. Un po' Ambra ha raccontato proprio qualche parte del loro progetto. Però mi interessava un po', cioè, essendo che anche noi di Maggio abbiamo fatto, cioè siamo andati a cercarci gli oggetti lunghi, però è stata una cosa un po' che diceva, ma io non mi sono omogenea. Quindi mi chiedevo, quanto è stato difficile quel primo step di andare da qualcuno e dire ci serve il vostro scarto e ci serve continuativamente? Cioè un po' l'arancia, un po' il pane, un po' per voi questa domanda, no? Cioè, avete avuto subito un bel riscontro, c'è stata una collaborazione subito, oppure... Allora, noi abbiamo scoperto che esisteva così tanto scarto di pane con un'avventura nel no profit, quindi attraverso una onlus che recupera eccedenze dagli eventi. E ovviamente mentre carne e altri alimenti, diciamo, non hanno problemi di riutilizzo, nel senso che vengono immediatamente in una mensa gestiti e mangiati, il pane ci siamo ritrovati proprio con i sacchi di pane che nessuno voleva, perché ce n'era già troppo. Ed è lì che abbiamo capito che c'era l'eccedenza, perché se no non lo sapevo, da casa mia io faccio la polpetta, finito. E quindi, se vogliamo, la visione è stata un'esperienza comunque in ambito no profit. E da lì abbiamo indagato. E siamo andati a vedere, poi basta studiare, ci sono analisi di situazioni anche borderline nella grande distribuzione, cioè il panettiere viene obbligato a ricomprarsi il pane la sera, queste sono cose che sono uscite anche sui giornali, quindi poi trovi un filone, lo indaghi e vai a scoprire poi tutte le problematiche legate a quello. L'altro scarto per noi, cioè, lavorando poi birrificando, ti dici: ok, ma questa cosa qua cosa ne fate? La trebbia. Allora, diamo, se va bene la diamo ai maiali, se non la buttiamo, ok, boh, nostro, ok? Quindi sì, un po' di curiosità, direi. E poi sì, alcune situazioni ti capitano e poi da lì nasce tante cose. No, da parte di Grill, per quanto riguarda i fornitori, c'è entusiasmo dal momento che però siamo noi che, cioè, andiamo lì, spieghiamo, raccontiamo, e di fatto, perché la verità è che il processo è facile per loro, cioè non so come dire, è un, se una persona venisse da te e dici: guarda, tu hai questo scarto e per mandarcelo devi fare questo, quest'altro, magari cambiare una mentalità è un po' difficile. Lì semplicemente dici: ok, anziché buttarlo lo dovete essiccare in questi forni che tendenzialmente spesso già hanno per altre cose, cioè è fattibile, e cioè, nel senso, veramente c'è anche entusiasmo. Noi lavoriamo, appunto, come dicevo, ancora con alcuni fornitori e pochi che quindi hanno imparato a conoscerci e lo sanno e non hanno nessun tipo di problema, nel senso, vedremo se invece, che ne so, ci saranno delle complicazioni. Infatti un'altra cosa che viene fuori è la fatica che c'è dietro. Cioè, recuperare il materiale non è: ho trovato del pane, ve lo prendo. Cioè, immagino ci sia fatica nell'andare a reperirli, poi penso che sia già fatto vostra questo lavoro, e poi appunto la fatica di doversi ingegnare a utilizzare un po' quello che abbiamo fatto tutti noi qua. Cioè, abbiamo notato quanto è più faticoso rielaborare una cosa utilizzata, una cosa di una materia privata di ma seconda. È più difficile che partire dalle materie prime, quindi immagino che il grosso del lavoro sia qua. Sì. Sottolineare quando no, ma infatti cioè, la cosa è che tipo per noi cioè, c'è entusiasmo perché noi arriviamo e già diamo la soluzione, cioè capito, non è che si devono ingegnare loro a dire come fare perché altrimenti la risposta sarebbe diversa, quindi ma questo sì. L'avevi evidenziato anche tu quando raccontavi all'inizio tu. Sì, anche capisci? Diciamo ci sono tante aziende che cioè, è un bene che tu li vieni a dire mi dai tu il scarto perché in realtà loro si no devono pagare per smaltire questi certo. Scarti, quindi questo è alla fine trovare questi spazi dove un win to win possa esistere è anche una nuova possibilità per tanti materiali, quindi fa anche nascere tante possibilità. Se domani c'è il caffè, il limone, l'arancia, il pane, c'è il marmo, ci sono tanti prodotti che sono molto difficili da smaltire o che comunque si devono smaltire, perché forse facendo un commento riguardo a qualcosa che ha detto Marilu prima, che tante persone dicono ok, ma perché il materiale dell'arancia se comunque l'arancia è organica di già, di sé è organica, quindi si butta e è organica. Ma comunque ha un processo di smaltimento e questi posti come Autogrill o come San Pellegrino che non è che fanno un'aranciata a casa e sono 6 pezzi d'arancia, sono tanti chili, non è facile smaltire quello, cioè deve venire fatto bene, quindi si fanno queste sinergie tra le aziende, tra studi, aziende, è già una nuova visione di un nuovo paradigma di produzione e consumo, quindi penso che ci possano essere tante porte, soprattutto come non so, sono ancora con il tema delle cose alimentari, mi sembra fantastico che si possa rimangiare o bere. Quindi qualcuno vuole fare commenti? Sì. No, io avrei un'ultima domanda. Mi chiedevo tipo quanto a livello comunicativo il fatto di dover diciamo calcare, comunque evidenziare che si tratta di materie riciclate o di scarti, eccetera, sia fondamentale anche a livello proprio cioè, economico, nel senso poi di riuscire a vendere questo prodotto, cioè quanto nel senso, non so, Viova riesca a vendere di più dicendo ok, io sono fatta di scarti di produzione, di eccedenze o per krill o per waste, cioè quanto è comunque il trend, comunque è un trend contemporaneo del momento del il recupero, il riciclo che è comunque attivante, è un'onda che tutti stanno cercando di cavalcare anche da acquirenti, comunque ha un suo appeal, quanto sia anche nei vostri casi, che sono cioè, dei casi molto concreti di queste cose, reali, oppure dici no, che cioè, se non lo dicessi riuscirei comunque ad avere il ritorno che ho, il posizionamento che ho. Lato nostro per il momento ovviamente è un posizionamento chiaro, voluto e quindi esposto. In prospettiva a me non dispiacerebbe che ci fosse tutto un canale per cui no, è normale che la birra venga fatta in un certo modo, però siamo comunque in un canale di artigianalità, perché poi c'è sempre un discorso poi di fare le cose in maniera artigianale o in maniera industriale, che poi sono due mondi che sono un po' diversi, quindi in questo momento sì, secondo me cioè, è necessario. In futuro non è detto, in futuro potremmo essere semplicemente uno dei modi per, però adesso per dare un valore aggiunto lo devi dire. Io mi aspetto che diventi un po' più normale, però non subito. Sì, no, stavo pensando che sì, effettivamente adesso la storia dell'essere creato da qualcosa che prima era gettato è un po' il punto di forza a livello per Good Waste e non avendo mai provato un altro approccio non saprei dirti se funzionerebbe comunque, se gli oggetti verrebbero venduti comunque o meno, però sin dall'inizio eravamo molto chiari su questo fatto con materiali di scarto e quindi non saprei rispondere. E per noi, vabbè, noi puntiamo molto sul design, nel senso, cioè questo è un prodotto che deve piacere al di là del, ovviamente, sì. Cioè anche immagino per questo, cioè sì. del fatto che sia fatto di arancia o no, comunque deve essere un bel prodotto. e abbiamo una fetta di persone che lo scelgono al di là della sua storia, però quello che noto al momento è che c'è invece un'altra fetta di persone che ha bisogno anche di è richiesta di dire ok, compri una cosa perché ha questa caratteristica fatta dall'arancia, sai, loro fanno questi che recuperano l'arancia perché come dici tu è un po' un trend anche in questo momento e ci sono delle persone che vogliono cavalcare questo trend e dire ok, faccio questo acquisto perché ha una cosa da raccontare anche in più. E quindi sì, ovviamente ci sforziamo di comunicare al meglio l'organicità del materiale. Devo dire che non abbiamo ancora trovato la formula perfetta se dire 100% vogliamo comunicare che è fatto d'arancia o 100% è un prodotto design, chi se ne frega del materiale. Cioè siamo lì, stiamo un po' investigando. Sì, penso che sia un punto in comune anche almeno le vostre realtà, il fatto di accettare che state riutilizzando, che state utilizzando waste e darle un nuovo valore, e che si vede che le state dando un nuovo valore e che volete farlo vedere. Penso che, un po' collegandomi a quello che ha detto lei, che è importante comunicarlo, che la comunicazione sia molto importante soprattutto in questi nuovi progetti, quindi spero che anche questo serva come un canale di comunicazione, fare conoscere e fare parlare, perché così vi conoscete anche un po' di più. Se qualcuno vuole fare algún altro commento o domande, se no si beve. Grazie agli ospiti, grazie davvero. Se volete assaggiare una birra, tu mi devi dire quale devo assaggiare, però. Prendi una.